Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo argomento che affrontiamo in questi giorni con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre è quello dei farmaci difettosi bloccati dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Una notizia che è passata un po' in sordina, dobbiamo dire, noi cerchiamo di amplificarla, perché quando si parla di salute bisogna sempre tenere le antenne alzate. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, cos'è successo? Alcuni farmaci di una azienda in particolare, che è la Gemona, sono stati bloccati addirittura col divieto di utilizzo. Sì, come hai detto te Mirko, innanzitutto una notizia che oltre a creare allarmismo da parte di tutti, perché come hai detto da parte nostra certamente, perché è passata in sordina, ma dall'altra l'annuncio di questa notizia è quella di indurre tutte le persone che ci sono in ascolto, che vengono a sapere, di verificarmi se a casa hanno questo elenco di medicinali di cui l'AIFA ha pensato bene di vietare la commercializzazione o addirittura comunicando a tutti di chi ne ha a casa e non li sta conservando, magari di eliminarli. E come ha detto te, noi anche invitiamo tutti i consumatori magari a collegarsi al sito dell'Adico, dove viene riportata non solo la notizia ma anche l'elenco di tutti i medicinali. Ecco, la Gemona di Anagni, azienda chimico-farmaceutica, l'invito è stato fatto proprio come sempre a scopo precauzionale, perché sembra che il principio attivo in alcuni di questi medicinali sia inferiore a quello che dovrebbe essere, è così? Sì, come hai detto te, la Procura di Frosinone ha condotto questa indagine e il risultato di questa indagine è proprio quello di aver evidenziato come nella composizione chimica di questi medicinali il principio attivo si trova in soluzione inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere una percentuale che invece il medicinale dovrebbe conservare. Purtroppo si trova un elenco di medicinali molto diffusi, perché sappiamo che è una società molto importante e certamente ci sono anche molti medicinali anche che presumo molte persone che abbiano problemi di circolazione oppure anche antinfiammatorici, che abbiano artrite reumatoide, qua si parla anche di reumatismi, problemi ai tendini, problemi ai muscoli, problemi a chi può avere anche ricevuto delle lesioni durante la pratica dello sport e via dicendo, e di dare una controllata nelle proprie dispense, perché veramente l'elenco è molto molto ampio e soprattutto mi dispiace come una situazione in cui ci è stata data una notizia così e pochi quotidiani hanno dato il giusto risalto. Parliamo anche di medicinali per chi ha problemi di ulcera, di gastroenterite, parliamo di chi ha anche problemi di carenza di ferro, in particolare anche per chi ha problemi durante la fase di gravidanza, di allattamento, quindi medicinali di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, che secondo me molte persone veramente possono tuttora oggi averli e senza saperlo magari stanno utilizzando. Ecco, l'elenco completo non stiamo a citare tutti i nomi, però l'azienda, ripetiamo, la Gemona è scritto, e l'elenco completo è sul sito associazionedifesaconsumatori.it. Apriamo qualche altra considerazione, Carlo. Il consumatore, appunto, in questo caso, certo, l'avviso è stato dato, noi lo stiamo rilanciando, ma se per caso, e non ce lo auguriamo, qualcuno dovesse avere dei danni, in realtà magari il principio attivo qui è solo questione di quantità, quindi magari fa meno effetto rispetto a quello che dovrebbe fare, però dovessero registrarsi malauguratamente dei casi appunto di peggioramento delle condizioni dovuti a questo tipo di farmaco, quali sono i diritti dei consumatori? Beh, innanzitutto Mirko, visto c'è che questa volta magari a differenza di tante altre volte in cui siamo stati qui a dare notizie, a commentare, c'è che uno rischia di prendere un medicinale e veramente non vedersi effetti curativi per quanto riguarda la patologia, quindi sostanzialmente non rischia di non curarsi. Per quanto riguarda poi eventuali rischi che uno potrebbe avere in questo senso. Noi comunque, come sappiamo sempre, che il consumatore ha diritto a potersi vedere rimborsato di eventuali danni derivati da patologie o qualora che potesse risorgere delle intolleranze. Noi come Adico abbiamo uno sportello anche apposta che dà assistenza per questo tipo di problematiche qua, ma comunque rimane sempre anche il pronto soccorso o il medico di base che una persona può sempre consultare per qualsiasi problema. In questo caso, come detto, non si può, sarà difficile che possano insorgere dei casi clamorosi, ma il rischio è che uno che sta male prende questo medicinale e continua a star male, per cui in questo caso si potrebbe parlare di risarcimento di spese mediche per quelle che, insomma, la persona può aver sostenuto magari seguendo delle terapie che, di cui magari non ha potuto entrare sulle fasce di esenzione e pagarsi a titolo pieno. Poi noi sappiamo, Mirko, che e questo lo dico perché magari per molti può anche sembrare incredibile, che oggi sostanzialmente leggevo un po' di tempo fa anche sui quotidiani che il mercato dei medicinali, soprattutto quelli anche contraffatti, che magari non è il caso, non è questo caso, ma però è sempre un argomento che mi piace riproporre quando si parla di queste cose, addirittura conosce un mercato in Italia che è quasi superiore a quello della droga, perché oggi il medicinale e prodotti di estetica, di bellezza e di qualsiasi altro tipo, comunque pensiamo anche a chi che fa palestra, come pensiamo ai prodotti anticalvizie, come pensiamo agli integratori, come pensiamo anche a Viagra, sorprendentemente conosce un mercato, tra virgolette, parallelo a quello legale, di cui molte persone si riforniscono anche facendo dei quantitativi, di ordinativi tramite internet, che è un mercato che sostanzialmente non conosce crisi. Eh sì, e anche la cronaca, i sequestri anche nell'ultimo periodo mi pare che nel settore siano aumentati, vuol dire che intanto le forze dell'ordine stanno lavorando bene a tutela della salute pubblica, il NAS ma anche la Guardia di Finanza, e vuol dire che però effettivamente sotto c'è anche molto interesse economico per la commercializzazione di farmaci che non sono completamente a norma. Torneremo a parlarne in un'ulteriore occasione. Intanto ringraziamo l'Adico e ci ritroviamo anche nella prossima settimana con altri due argomenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te, Nico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.